Come sa, noi prendiamo spunto anche da un film degli anni 60, Indovina chi viene a cena, dove le difficoltà che deve affrontare una coppia mista sono messe alla prova. Mi chiedevo se sua madre di famiglia ebrea e suo padre di famiglia palestinese avessero dovuto affrontare difficoltà simili. Ecco, non all'interno della famiglia, sicuramente in altri contesti. Tuttora per me in alcuni contesti è difficile spiegare e far accettare il fatto che mio padre palestinese e mia madre ebrea si siano amati e sposati e abbiano creduto in questo amore anche con un pizzico di senso politico in qualche modo, perché erano ben consapevoli del fatto di andare al di là di una certa barriera culturale e sociale, che però non è mai stata vissuta in questi termini dalla mia famiglia, né quella ebraica né quella palestinese, che invece hanno sempre sostenuto questa unione. Popolo palestinese e il popolo ebraico, sia israeliano sia della diaspora, hanno in comune anche dei piatti, tra l'altro. Questa è una cena, quindi di solito chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare un piatto con loro. Qual è il piatto che ha deciso di portarci questa sera a Radio 24? Allora, io in realtà vi porto un piatto che non è comune. Ci sono effettivamente vari piatti comuni, perché sono comunque due popoli semitici. Il piatto che però vi porto invece è makluba, che è palestinese e significa ribaltata. È un piatto tipico di Hebron, la città di mio padre, ed è a base di riso, verdure e carne. E appunto viene ribaltato, e il gioco è riuscire a mantenere questa torre che dovrebbe rimanere riversando la pentola sul piatto di portata, e riesce chiaramente se la torre rimane in piedi senza cadere prima che venga tagliato il riso con le verdure e il pollo. È un piatto che mi ricorda le feste, per cui in casa ogni volta, in casa ha sempre cucinato mio papà. E la mia mamma non è mai stata una grande cuoca, quindi forse per questo conosco più la tradizione palestinese, la tradizione culinaria, e quando c'erano le feste questo era generalmente il piatto che veniva servito, e anche tutti gli amici italiani venivano apposta per poterlo provare. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him. For he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers there. Dicevo piatti condivisi perché talvolta mi è capitato con degli ospiti ebrei e degli ospiti palestinesi che si contendessero l'hummus. Sì, assolutamente. Infatti, l'origine dell'hummus. Sì, infatti bisogna dire che condivisi e poi contesi mi sembra la definizione giusta, per cui tra questi due popoli c'è sempre, secondo me, questa discrepanza che a seconda della personalità e della posizione politica viene vissuta o come condivisione o invece come conflitto in qualche modo. Però appunto forse è proprio questo interessante, vedere come un conflitto possa essere poi guardato con occhi diversi e diventare invece un'unione. Chiaramente è quello che io mi auguro e che i miei genitori si sono augurati amandosi. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare con Widad Tamimi del suo libro Le rose del vento a Radio 24 tra pochissimo. Ansa ci preparerà la sua Macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Scegliete la vita.

il Fucarit Hadas, lenticchie cotte lentamente con delle erbe, fiocchi di peperoni rossi, zenzero e aglio. Che tipo di politica ci sarà secondo lei per il Medio Oriente con adesso l'elezione di Donald Trump? Come ha vissuto questa elezione? Purtroppo il pessimismo è altissimo. Se non siamo riusciti ad ottenere qualcosa con il presidente precedente, direi che con questo ci allontaniamo ancora di più. Dopodiché, la speranza è sempre l'ultima a morire. Le condizioni sono diventate anche molto più difficoltose, per cui mentre una volta si parlava di due stati per due popoli, adesso è sempre più difficile immaginarsi che questo sia possibile per come la situazione territoriale è costituita a questo punto. A livello politico internazionale credo purtroppo che non ci sia l'interesse di intervenire in questo pezzo di Medio Oriente, che tra l'altro adesso è circondato da delle guerre sanguinose e da un cambiamento radicale politico, religioso, sociale, che rende ancora più difficile la situazione. Nel suo romanzo parla anche dell'adesione da parte di suo nonno materno, questo signore intellettuale ebreo triestino, al fascismo. Un'adesione iniziale che in realtà lo accomuna a molte persone e anche non pochi ebrei che avevano provato simpatia all'inizio per Mussolini. Come l'ha vissuto suo nonno e la famiglia poi quando poi sono state promulgate le leggi razziali? Con grandissima delusione. E proprio per questo la famiglia è sempre stata contraria al ritorno di mio nonno in Italia, perché è stata una famiglia irredentista, una famiglia che ha sostenuto moltissimo il progetto dell'Unità d'Italia, una famiglia che ha creduto molto nell'Italia, una famiglia che non ha aderito al fascismo se non appunto con l'eccezione di mio nonno, che in realtà era bambino, per cui bisogna anche dire che una serie di un contesto, una cornice fatta anche di feste, di attività, una società organizzata può chiaramente affascinare un adulto e lo fa ancora più facilmente con un bambino. Quindi mio nonno è stato attratto da questo modello, aveva tra i 10 e i 12 anni, per cui molto molto giovane. La famiglia non era nelle condizioni di poter contrastare questo fascino di mio nonno e non è stato fatto mai esplicitamente, se non discusso poi a posteriori. Chiaramente per mio nonno credo che sia stata una grande delusione e in fondo abbia avuto anche un grande senso di colpa. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Il libro è dedicato a dei bambini che erano il nonno e suo padre. perché secondo lei, ed è questo mi pare il filo conduttore, davvero hanno vissuto dei destini incrociati, diversi ma simili, soprattutto nel sogno comune di voler tornare, no? Nella loro terra. Assolutamente sì, e devo dire che ad incrociarsi a queste due storie c'è poi anche un mio impegno nei confronti della situazione attuale dei rifugiati in Europa, per cui come volontaria della Croce Rossa ho passato mesi, e insomma tuttora li vedo in condizioni diverse perché adesso sono nei centri di asilo, però ho passato mesi a vedere questi fiumi di bambini che arrivavano. E quindi in qualche modo ero nello stesso periodo, stavo concludendo il mio romanzo e proprio alla fine ho scelto il titolo pensando a questi semi, a questi germogli che vengono strappati via da una terra e vengono portati lontani con delle grandi cicatrici ma anche delle grandi potenzialità, e ricrescono altrove portando appunto un bagaglio molto complesso che è fatto di cose positive e cose purtroppo negative, perché le esperienze sono molto dure. Quindi pensando a mio padre e mio nonno e vedendo tutti questi bambini arrivare, chiaramente per me l'impatto emotivo è stato fortissimo e continua ad esserlo. Oh, dance me to the end of love. Perché lei è cresciuta in Italia ma attualmente vive a Lubiana, dove presta servizio nei campi di accoglienza ai profughi nell'ambito del programma della Croce Rossa Slovena. Quindi appunto nasce anche da questo impegno la suggestione, come ci raccontava. Ora quella è la situazione alla quale lei assiste in Slovenia? Allora, la situazione è molto cambiata rispetto ad un anno fa, per cui un anno fa le persone transitavano attraverso la Slovenia, la famosa tratta dei Balcani, e passavano soltanto per andare verso il nord, per cui le loro destinazioni erano soprattutto Germania, Austria, Svezia. Quindi si vedevano, era proprio la situazione di emergenza, e quello di cui io mi occupavo era Restoring Family Links, che significa sostanzialmente aiutare le persone a ritrovare le famiglie che hanno perso durante il percorso, e purtroppo erano molte anche bambini che perdevano genitori perché la confusione in mezzo a migliaia di persone era incredibile. Adesso invece la situazione, da quando ci sono stati gli accordi tra l'Europa e la Turchia, è completamente cambiata, per cui le persone di cui io mi occupo non più con la Croce Rossa ma con associazioni locali e governative è più di stabilizzare la loro situazione, per cui si tratta di persone che vivono presso i centri di accoglienza permanenti in attesa di avere i documenti per l'asilo politico e cominciare una vita nel territorio in cui sono arrivati. Dalla Russia al Maghreb, dalla Spagna all'Italia, la cucina ebraica raccoglie sotto a un'unica definizione ricette tipiche dei paesi molto diversi. Nel corso dei secoli, gli ebrei hanno mangiato e vissuto un po' ovunque e hanno semplicemente fatto proprie alcune ricette, le hanno rielaborate e poi portate con sé, fino in America o in Israele, dove si sono contaminate a loro volta con la cucina locale. Il bagel tipico newyorkese, ad esempio, è una ricetta dell'Est Europa arrivata negli States con i primi immigrati ebrei. Mangiare ebraico può voler dire trovarsi davanti una carpa in agrodolce come un piatto di riso persiano, fortunatamente quasi mai contemporaneamente. Le tradizioni sono diversissime e non hanno nulla in comune a livello di sapori, ma condividono tutte, e da migliaia di anni, le stesse regole, quelle della kasherut. Kasher significa letteralmente adatto, permesso, e contraddistingue tutti i cibi che possono essere mangiati dagli ebrei osservanti e le regole giuste per cucinarli. Non sono kasher il maiale, i pesci senza squame, i crostacei, ma anche le ricette che mixano latte e carne. Le regole della kasherut sono decine e riguardano la scelta degli alimenti, la macellazione degli animali, la conservazione e la netta separazione fra carne e latte. Le regole vengono osservate più strettamente dagli ebrei ortodossi e meno, o anche per nulla, da tutti gli altri. Ma i prodotti certificati kasher sono un vero business. La certificazione di cibo o ristorante kasher viene dato dopo fitti controlli da parte di rabbini specializzati che verificano il rispetto delle regole igieniche, la provenienza di ogni ingrediente e l'uso solo di materie prime a loro volta certificate. Non tutti gli ebrei controllano le etichette, eppure i prodotti certificati kasher stanno vivendo un boom di vendite, soprattutto negli Stati Uniti. Si stima che solo il 14% delle vendite di questi prodotti avvenga per motivi religiosi. Grazie per essere stata con noi e per averci raccontato proprio il cuore di quella che vuole essere anche la nostra trasmissione, una riflessione sull'identità che è sempre doppia, multipla. A Widad Tamimi, grazie per essere stata con noi questa sera, in bocca al lupo per i suoi progetti. Grazie mille, ringrazio molto voi per l'invito. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di Indovina chi viene a cena. Ci risentiamo sabato prossimo su queste frequenze. Per scrivermi, per mandarmi degli spunti, delle storie o anche delle critiche, vifurlanetto@radio24.it. Buona serata a tutti, ciao. You've got to give a little. That's the glory of...